liquida e serena, fatta apposta per amor. Siamo rimasti senza cena, stanchi siamo di camminar, vagabondi senza meta, non sappiamo dove andar. Perché soli, soli nella notte, perché fischiettando una canzone, senza albergo per dormire, senza nulla per mangiar, per calmare l'appetito non ci resta che tantor. Perché sotto il raggio della luna, nel cielo tante stelle per sognare, chi lo sa se tante stelle non si porterò. La canzone ad ascoltar. Ecco un altro s'avvicina, già si illumina il balcone. Su coraggio mi avvicina ed effetto la canzone. Su stendiamo un po' la mano, soffochiamo l'emozione. Perché soli, soli nella notte, perché fischiettando una canzone, senza albergo per dormire, senza nulla per mangiare, per calmare l'appetito non ci resta che cantare. Perché sotto il raggio della luna, perché le tante stelle per sognare, chi lo sa se tante stelle non ci porterò. Per molto c'è qualcuno, la canzone ad ascoltare.